Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Chissà quante volte vi è capitato di prendere le vostre fotografie, magari di un bel po' di anni fa, e di guardarvi come eravate allora, ma con gli occhi di oggi. Questo è quello che ha fatto anche un nostro grande amico che ci è venuto a trovare, come ho detto anche nel promo che vi ho preparato per l'appuntamento di oggi. La barba in più, qualche capello in meno, ma gli occhi sempre celesti, belli, profondi. In 20 anni di carriera la vita cambia e ci cambia, si perde qualcosa, ma si guadagna molto, si guadagna parecchio. Chissà se lui condivide queste parole per raccontare lo strano percorso dei suoi primi 20 anni di successo. Lo riconoscete subito. Occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardando il protagonista dello strano percorso di cui ci occuperemo oggi insieme a lui e insieme a tanti amici qua in studio con me, con noi, e poi saprete perché dico noi, c'è Max Pezzali. Buongiorno e buongiorno a tutti. Oppure Max 20 dovrei dire. Ma Max 20, sì, ci sta, insomma, così è un, ormai è, così è una sigla che si adatta anche a me, insomma, 20 anni di successi, 20 kg in meno. Senti Max, un successo praticamente ininterrotto, come testimoniato anche dalla tracklist del tuo CD, perché oltre a 5 inediti ci sono ben 15 evergreen del tuo repertorio, cantati con il gotto della musica italiana. Non manca praticamente nessuno all'appello. E allora ti vorrei chiedere, Max, se tu dovessi scegliere 3 parole per raccontare il tuo strano percorso dagli inizi fino ad oggi, fino a Max 20, insomma, quali sceglieresti? Ma 3 parole sarebbero sicuramente la prima, inaspettato. Inaspettato. Perché? Io pensavo di essere una hit estiva, cioè di esaurirmi nel giro di un'estate. Secondo, emozionante, perché ho provato emozioni e sensazioni in questi 20 anni che non avrei mai pensato di poter provare. E la terza è forse la terza parola. Timido, perché io il mio modo di raccontare non è mai eccessivamente, insomma, non tende a non imporsi, cerco di stare sempre un pochino dietro, no? Un pochino in secondo piano. Sì, io direi garbato, esatto. Però ti lascio timido. No, timido perché esatto, non posso darmi... Però è garbato, che è questa, il garbo. Esatto, io cerco di metterla sul piano del... cioè cerco di evitare di strillare, insomma, di mettermi troppo al centro delle scene, perché per me è un fattore caratteriale. Io sono uno che non avrebbe mai fatto questo mestiere per scelta consapevole, no? Perché non ho il piglio della rockstar, non ho il carisma di tanti miei colleghi che invece sono nati per stare sopra un palcoscenico. Io sono uno che scriveva canzoni, si divertiva a farlo e nessuno gliele cantava, quindi tocca a me. 800 24 00 24, noi siamo in diretta, aspettiamo le vostre telefonate, i vostri messaggi al 349 238 6666. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. E parleremo, e noi di parole, di percorsi, parleremo naturalmente con Max Pezzali, ma anche con tutti voi all'ascolto. Chiamateci per parlare con lui, ma anche, direi, per raccontare un po' come ha fatto Max, le parole chiave che potreste usare per spiegare come in 20 anni la vita è cambiato e vi ha cambiato. Insomma, si perde qualcosa ma molto si guadagna. E voi che cosa avete perso, che cosa avete guadagnato col passare del tempo? Su Facebook avevamo naturalmente annunciato il tuo arrivo qua a Radio 24. Alcuni ascoltatori ci hanno scritto. Loretta ci scrive: purtroppo col passare del tempo ho più perso che guadagnato, perché sono rimasta sempre ancorata al passato e non ho vissuto appieno il presente. Che stupida, scrive lei. Margherita: io ho guadagnato consapevolezza e perso inconsapevole serenità. Preferivo un po' prima. Tra l'altro qua in studio parlavo al plurale perché è tornato a trovarci Alberto Pellai. Ciao Alberto, medico, psicoterapeuta, che in queste puntate dove facciamo un po' il bilancio delle nostre esistenze è di casa, è sempre presente. Alberto, grazie. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Sono felice di essere qua anche con Max Pezzali. Lo dicevo prima perché è l'eroe dei miei figli. Proprio è in assoluto il cantante più cantato in casa. Credo che i vicini ogni tanto mi odino. Ci dicano adesso basta. E in realtà è, credo, un cantante con cui io, un artista con cui io sono diventato grande, per cui sono particolarmente grato di essere qua. Tra l'altro insieme, delle belle parole. Insieme noi faremo proprio il nostro strano percorso con Max Pezzali, che è una bella risorsa per noi e anche per gli ascoltatori che ci stanno seguendo e che io invito a chiamare, perché tra l'altro tu proprio fuori dalla trasmissione mi dicevi che il nuovo CD è proprio una specie di piccola guida, così l'ha definita, e sai che lui è un grande e attento sia sotto il profilo psico che quello sotto il profilo musicale. Ho letto. E ognuno di noi potrebbe usarla come una sorta di diario, di canovaccio, di taccuino su cui raccontarsi. Ma guarda, credo intanto per quelli che hanno la nostra età, la mia, quella di Max, questo sia proprio uno di quei CD dove entri e fai un viaggio, perché ci trovi in quello che sei stato, quello che hai sognato, in parte probabilmente hai realizzato, e poi con i 5 inediti trovi proprio anche una fotografia probabilmente di quello che sei, proprio una serie di tessere di puzzle che, se le ricomponi insieme, costruiscono l'idea di un percorso. E quindi presumo anche quello che diceva la nostra ascoltatrice Margherita, no? Passare da l'inconsapevole serenità, la consapevolezza. Margherita ha perso un po' di serenità, ma c'è un sacco di positività dentro alle sue canzoni. A me piace molto dentro a questo CD il fatto che tu, se lo sfogli un po' come un album di fotografie, sì, trovi un po' la tua parte privata e un po' la tua parte pubblica. Trovi quello che sei tu, magari dentro la tua casa, la tua stanza, dentro te stesso i tuoi pensieri, come tu racconti te stesso a te stesso, ma poi ritrovi anche te dentro alla tua vita familiare, per esempio, e dentro al tuo gruppo di amici, un sacco di esperienze vissute insieme, un sacco di piccole pietre miliari del tuo percorso autobiografico che lì sono poi cantate e raccontate, quindi condivise con gli altri. Insomma, una sorta di gioco degli opposti, Max, in cui ognuno provi e può trovare una sintesi. Tra l'altro questo CD si apre proprio con l'immagine di te 20 anni fa, opposta a quello che sei oggi. Esatto. Che è un po' una, diciamo, una scelta tra virgolette coraggiosa, perché si tende a non volersi vedere mai a confronto, no? Almeno io generalmente, a parte che non mi piace guardare le fotografie del passato, perché di solito si ritrovano, vabbè, capi d'abbigliamento improbabili, delle cose che non si capisce come si possono aver scelto allora. Però in realtà fa sempre paura vedersi a confronto la propria immagine di 20 anni prima e la propria immagine di oggi, perché dici porco giù, della ruga in più, i capelli in meno. Però io credo che sia bello anche così, credo che sia l'accettazione, no, del tempo che passa, perché insomma anche il mito dell'eterna giovinezza estetica, no? No, è un po' una roba che non ci serve poi, no? Non e quindi insomma mi piace anche vedere che insomma tutto sommato manteniamo. C'è una congiunzione, c'è un passaggio tra ieri e oggi, e tra l'altro nel tuo CD le prime due canzoni della tracklist sono una specie proprio di anello tra passato e presente, perché le hai scritte insieme al tuo amico di sempre che ha condiviso con te, esatto, la partenza, che è Mauro Repetto. E allora cosa vuol dire? Com'è stato rincontrare una persona così importante e rimettersi a lavorare con lui? Che cosa e come vi siete trovati? Identici, diversi? La cosa straordinaria è che, pur essendo oggettivamente diversi dal punto di vista anche fisico, di abitudini di vita, lui è sposato, vive a Parigi, ha due figli meravigliosi, insomma, e vive in una realtà molto molto diversa dalla nostra. Cioè lui adesso la cosa più strana, no? È parlare con lui e che si capisce che sta pensando in francese, cioè che ci sono delle parole che vengono pensate e quindi vengono tradotte dal francese all'italiano, ma non sono la traduzione reale, no? Questo mi ha fatto inizialmente molta impressione, perché è segno di una trasformazione profonda anche proprio di abitudini a livello di linguaggio. Però la cosa bella è che non abbiamo mai, noi ci siamo rincontrati e abbiamo cominciato immediatamente, abbiamo ricominciato dove avevamo interrotto, cioè non abbiamo parlato di passato, no? È bellissimo perché cominci invece a parlare del, ah sai, ho pensato una cosa, sto lavorando a questa cosa qui, senti questo, cioè sempre con l'entusiasmo di guardare al futuro, e credo che questo sia l'elemento fondamentale della, diciamo, di quel tipo di alchimia che c'era allora e che c'è ancora tra noi due, ecco. Quello che ti muove è quello che fa rumore e che ti sveglia e ti dice di andare, non ti fermare, eccolo il tempo, è tutto quanto in movimento, striscia d'asfalto, luce di lampione, arriveremo a destinazione, il punto esatto da cui siamo partiti, le tasche piene di quintali di miti, io e te, ci basta di sapere che se voglia di far festa chiama 883, Fezzali, un uomo, una moto, un cuore con le ali. Non c'è storia. Ecco qui con un altro tuo grande amico, sì. Giovanotti, tra l'altro il tuo album, a proposito di amicizia, affronta anche dei temi sociali, come dice il titolo di questa canzone, Tiene il tempo, racconti questi anni difficili, complicati. Sì, diciamo specialmente nei, appunto, nei pezzi inediti, cioè prevalentemente nei pezzi inediti, nei cinque inediti, cerco di raccontare un po' il così quello che mi arriva di questo tempo. Si parlava prima dell'evoluzione, no? Il passato, il presente, l'inconsapevole ottimismo e spensieratezza di certi periodi della giovinezza e contrapposti alla consapevole ansia a volte del presente. A me ha cambiato molto il fatto di avere un figlio, cioè ha cambiato radicalmente il mio rapporto con quello che mi circonda. Sono diventato più prudente e ho più paure per certi versi rispetto a prima, e all'inizio l'ho vissuto un po' come un trauma, no? Perché porco Giuda, ma perché prima non pensavo a questo, questo, quest'altro, e adesso mi sto trasformando in una sorta di supereroe, cioè ecco, una cosa che ho notato da quando ho avuto un figlio, mi sono migliorati i riflessi, perché ti abitui in casa a evitare delle catastrofi imminenti costanti, no? E quindi adesso riesco a prendere al volo oggetti, afferrare cose, perché magari rovescia una cosa. Mi sono aumentate proprio, mi è aumentata la velocità di reazione, e questo è segno di una maggiore paura nei confronti di quello che succede. Però adesso l'ho trasformata in sostanzialmente in consapevolezza. Capisco che i tempi sono quelli che sono, ma non ci sono tempi buoni e tempi cattivi, non ci sono epoche d'oro e epoche di oscurantismo, non esiste questa cosa. Io credo che ogni epoca abbia le sue problematiche, le sue peculiarità. La nostra epoca, in questi pezzi l'ho raccontata come un'epoca in cui forse ci fidiamo troppo. Cioè, noi abbiamo vissuto una grande rivoluzione che è stata internet, sì. No? Cioè ha cambiato tutto e tutte le conseguenze di questo cambiamento si sono in qualche modo applicate alla nostra vita quotidiana. Una delle cose più tipiche di questo tempo è il fatto che sostanzialmente tutto si è trasformato in estetica, no? Cioè noi abbiamo un mito estetico pazzesco nel nostro tempo. Tutto deve essere, cioè il contenitore è molto più importante del contenuto. Ogni bene, servizio o oggetto viene venduto in base a quello che il marketing riesce a far percepire all'utente. E lo stesso è successo anche alla politica, no? Questo è diventato. Noi abbiamo riso per anni degli americani che spettacolarizzavano tutto nelle loro convention. Ah, guarda, abbiamo preso quell'aspetto lì anche. Alberto. Ma devo dire che intanto ci racconta un po' un percorso consigliabile, no? Tutti noi che entriamo negli ANTA e poi negli ANTA ci rimaniamo per un bel po' nella nostra esistenza. Cioè un rischio grosso è quello che tu entri in un territorio molto privato dove hai fatto i tuoi figli, stai lì, proteggi il tuo piccolo angolino. Esatto. E invece questa cosa di guardare un po' anche al fuori, di usare l'esperienza della paternità che ti trasforma, ti fa diventare un altro uomo, anche come un'occasione per diventare un po' più se vuoi, un uomo col senso civico. Assolutamente. Cioè, ti guardi nel mondo, devi costruire un mondo migliore, non più solo per te, ma anche per i tuoi figli. E direi che questo è poi anche uno straordinario consiglio antidepressivo. Se ci pensi bene, chi entra un po' nella fatica di invecchiare è perché si chiude lì, nella sua piccola stanza, non riesce a guardare fuori di lì, e pian piano si ritrae, diventa sempre più piccolo e sempre meno esploratore ed esplorativo. E noi oggi vogliamo proprio esplorare i nostri 20 anni. Prendiamo spunto da Max Pezzali e usiamo proprio il suo CD, come spesso facciamo con Alberto Pellai, per fare una sorta di percorso psicologico, una lettura che ci permette di, dal presente, analizzare quello che siamo stati gli anni passati e guardare anche al futuro con un certo ottimismo, una certa serenità. Tutto questo si racchiude in 3 parole, perché sono 3 gli aggettivi che abbiamo dato a Max per descriversi. Alberto, invece tu come ti descriveresti? Ma io mi descriverei certamente alla ricerca, infatti di mestiere faccio anche il ricercatore, userei proprio il termine paterno, nel senso che il fatto di essere diventato comunque padre dei miei figli ha decisamente trasformato l'uomo che sono, e poi credo anch'io molto esploratore nella vita. 3 parole all'800240024 per raccontarci, per capire un po' dove stiamo andando, come la vita ci ha cambiato, perché la vita continuamente, giorno dopo giorno, ci chiede degli adattamenti e dei cambiamenti che noi dobbiamo essere un po' pronti ad affrontare. Intanto abbiamo in linea con noi, che ha ascoltato le nostre chiacchierate intorno ai cambiamenti, l'autrice di un libro molto interessante che si chiama Il Paradosso del successo. Mamma mia, quante S, parlo con la S come il tuo bambino. Esatto. Tutto quello, te la ridi, tutto quello che bisogna perdere per poter vincere, edito da Ponte alle Grazie. In linea con noi abbiamo Rosanna Orlando, benvenuta. Buongiorno. Coach. Buongiorno. E scrittrice. Dottoressa Orlando, nel vostro libro, quando teorizzate, descrivete tutto quello che bisogna perdere per poter vincere, giusto? Sì. Raccontate anche, fate un po' una sorta di bilancio, e secondo lei quali sono gli aspetti che, secondo, parlo al plurale perché siete in 2 a scriverlo, voi oggi risultano più difficili da abbracciare e di accettare? Allora, sicuramente è difficile abbracciare e accettare il proprio senso di inadeguatezza, le proprie timidezze. Prima Max Pezzali sentivo che parlava del fatto di essere timido. Sì. Ecco, queste cose sono difficili da abbracciare, ma in realtà più si riesce ad abbracciarle, più sono proprio quelle cose che ci portano sulla strada del successo, perché hanno a che fare con il nostro essere unici, e il successo è strettamente legato all'unicità. Quindi non è la persona perfetta, quella che ci immaginiamo, che sogniamo di essere. Ecco, la timidezza è un tratto distintivo. Tu dicevi, io scrivevo canzoni ma nessuno me le cantava. Esatto. Non avrei mai fatto questo lavoro, mi sono quasi diventato all'inizio. Vabbè, allora vado io, no? Esatto. Ecco, hai creduto in te, che questo... Sì, ho creduto, sono quelli fare di necessità virtù in certi casi, no? Dire ok, benissimo, allora questa è l'accettazione della realtà, nessuno ti canta le canzoni, provini, te li devi cantare da solo, cerca perlomeno di farlo in maniera dignitosa, ecco. E quindi mi sono esposto in prima persona, e questo all'inizio mi ha creato insomma delle difficoltà, perché non sapevo dove guardare, non sapevo, vedevo tante persone che facevano quel lavoro che erano già animali da palcoscenico, abituatissimi, anche se erano all'inizio della loro carriera, però abituatissimi a guardare, a muoversi. Io invece mi trovavo, sembravo uno che passava di lì per caso, uno che era finito sul palco per caso. Però questo mi ha aiutato, ecco, ringrazio il mio lavoro perché mi ha dato la possibilità di affrontare anche tante cose di me stesso. È una sorta di autoanalisi, di terapia continua, no? Io è una domanda che tanto ti devo fare, è un classico. Ci sono tanti ragazzi adesso che stanno cercando la loro strada e sono molto disorientati. Sì. E sentono dentro di sé una passione, pensano di avere un talento che vogliono sviluppare, che può essere, ci sono tanti momenti in cui dobbiamo prendere una decisione e ci manca la sicurezza, e certo, siamo timidi, come sì, sei sì, stato sì, tu. Sì. Ecco, tu sei papà, ma il tuo bambino è ancora piccolo. Ad un ragazzo che si sta affacciando al mondo del lavoro, che cosa diresti? Che l'unica cosa che ci salverà e che ha sempre salvato tutti è la passione, no? Cioè il fare le cose che ti appassionano. E penso che la passione non si sviluppi solo nei confronti di attività, tra virgolette, artistiche. Io ho conosciuto carrozzieri appassionatissimi del loro lavoro, persone che riescono a lavorare, verniciatori meravigliosi, sto dicendo cioè professioni che non vengono considerate creative, ma che in realtà, se fatte con passione, diventano assolutamente creative. Sembra un promo per Radio 24. Esatto. La passione. Esatto. Cos'è la passione? Si sente, certo, in questo caso si sente, ma si prova. E quindi io dico, seguire le proprie attitudini, anche quando non sono legate al lavoro del momento, dice fai quello perché oggi c'è richiesta di questo tipo di professionalità. Lascia perdere la richiesta di quel tipo di professionalità, pensa a cosa ti appassiona, cosa ti emoziona. Credo che in ogni lavoro ci sia passione ed emozione, se uno lo sa fare bene. Sì, direi tra l'altro che quello che sta dicendo Max è molto dentro anche al nucleo della tesi sostenuta dal libro di Rosanna Orlando e della sua collega Calvenzi, cioè troppe volte noi rincorriamo il successo e cerchiamo di fare cose perché ci dicono che lì c'è il successo, invece il vero segreto è imparare ad essere chi siamo, lavorare abbondantemente su di noi, e nel fare questo probabilmente il successo arriverà, che è tutto un altro percorso. Dottoressa Orlando, prima di salutarci, quindi c'è un successo che noi possiamo coltivare dentro di noi ed è quello che funziona davvero? Allora, quello che funziona è quello che noi abbiamo chiamato nel libro il successo 1, che esprime esattamente la nostra passione, la potenzialità per cui siamo nati, e siamo nati per scrivere una canzone, per fare una sedia, per costruire una macchina, e quando quello che noi abbiamo dentro è uscito, è fuori, in quel momento c'è il successo, anche se lo sappiamo solo noi e i nostri amici. Questo è il successo 1. Il successo 2 è la conseguenza. Quindi successo 1 e successo 2 sono i due successi di Max Pezzali. Li ha avuti entrambi, ma perché ha lavorato sul successo 1 e quindi è arrivato il 2. Non si può invertire la sequenza di questi due numeri. No, invertirla è pericolosissimo. Se si lavora sul successo 2, il successo 2 non arriva, perché è un effetto, non si può lavorare verissimo, su un effetto. È verissimo. Grazie a Rosanna Orlando per essere stata con noi. Ricordo Il paradosso del successo. Sì. Tutto quello che bisogna perdere per poter vincere. Essere e benessere. Rivedere te, che effetto mi fa. Non importa più se sia stata colpa tua o mia. Alberto, è un concentrato di amicizie, cioè è proprio un'esaltazione del sentimento dell'amicizia, quello vero. Sì, diciamo che credo che appunto in generale nell'album si respiri un po' questa percezione dell'amicizia come il grande valore del collante, no? Un po' il paracadute emotivo che tutti abbiamo, perché credo che poi l'amicizia sia fondamentale a tutti i livelli. Credo anche il rapporto di coppia debba avere un sottofondo di amicizia, perché se no non si va da nessuna parte, perché non sempre sono rose e fiori, non sempre la vita ci riserva insomma belle sorprese, e le grandi emozioni, i grandi sentimenti sono straordinari da raccontare, ma poi senza un fondo di amicizia e di complicità non si va da nessuna parte. E tu hai degli amici? Sì, fortunatamente sì. Senti, non sbilanciarti, senti che cosa dicono di te. La musica porta sempre con sé il ricordo di qualcosa, e quando si appiccica alla pelle del tempo è impossibile che non entri a far parte anche della tua vita. Max e gli 883 hanno dato voce ai sentimenti di un'epoca che non c'è più, ma che riprende vita ogni volta che una loro canzone parte alla radio. È come ritrovarsi bambini e ricordarsi che tutto va al solito posto, quando è una canzone a mettere pace. Giuliano San Giorgi. Una moto, una strada, viaggiare esplorando il mondo, sempre con una storia da raccontare. Un senso di leggerezza, di libertà, immaginazione e concretezza. Raff. Max è un amico e un bravissimo cantautore. La sua semplicità nel vivere il successo deve essere un esempio per tutti. Ciao, amico moto. Eros Ramazzotti. In linea con noi c'è una grande amica, un'amica personale mia e anche una tua fan e pure tua amica, è Marta Cagnola, conduttrice di 140 caratteri, che immagino sia il nostro, ci abbia ascoltato dall'inizio, Marta. Io vi ho ascoltato più o meno dall'inizio, ma perché mi trovo nel luogo perfetto per parlare di Max Pezzali. Allora, io sono a Riccione, quindi estate, vacanze, ricordi di vacanze di 20 anni, ma sono a Riccione per il matrimonio di un amico. Straordinaria, quindi, questa combinazione. Di chi mette la testa a posto, fondamentalmente. Esatto. Peraltro un amico musicista che a un certo punto della vita ha detto: questo è il mio secondo tempo. E quindi ha deciso di mettere a stesso posto, di sposarsi in Romagna, e quindi sono nel posto perfetto per parlare di Max. E noi facciamo gli auguri in diretta auguri a questa coppia da Max sposi, esatto. Si dice felicitazione agli sposi. Esatto, sempre. Alberto? Direi che ha fatto una sintesi perfetta. Se uno deve fare la ricetta con gli ingredienti per l'incontro, un saluto a Max Pezzali, sono quelli che ci ha raccontato Marta. Marta, allora sì. buon matrimonio. Hanno già dato, sono già sposati, tra l'altro un collega musicista molto bravo che si chiama Michi Porru, musicista bolognese di grande, con anche una cena con amici di Alberto Pellai, perché il mondo è piccolo. Beh, insomma, praticamente è come se noi fossimo lì. Esatto, quindi è proprio una cosa tra amici. Grazie Marta per essere stata con noi, buona Grazie giornata. Marta. Un abbraccio, buona giornata. E abbiamo degli amici di Max che continuano a scrivere, ma ad esempio Max Spacca, ciao bello, ha così scritto va. Bello. Ma bello è un Marco, parolone, per esempio. Poi intanto un altro ascoltatore si rifà al liceo Copernico. Sì, Copernico. 80. Sì, la mia scuola, il mitico Copernico degli anni 80. Allora, Max con la sua musica ci ha raccontato senza eccessi, ma perché fate tutte queste parole con la S? E divinismi inutili, la vita vera, il sentimento legato allo stato delle cose, un artista vero, bravo e serio. Andiamo a Gianluca che ci chiama dalla provincia di Firenze. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grande Max. Ciao Gianluca. Ciao, buongiorno. Senti, io ti volevo fare complimenti velocemente per due cose. Prima, quel tuo essere normale ti ha fatto sentire, diciamo, uno di noi in tutti questi 20 anni. Ti ringrazio. Io ho 45 anni e ti ho sentito cantare sabato sera al Piazzale a Firenze. Ah, ok, sì. Senza nulla togliere agli altri. Una volta ascoltato te e Mengoni potevo anche tornare a casa. Ti ringrazio, no, poi bravi anche gli altri, insomma, comunque ti ringrazio di questo bel complimento. E adesso andiamo ad Adriana che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Adriana. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Adriana. Io chiamo in riferimento ad un'affermazione che ha fatto Max, che saluto, poco Ciao. Fa. Ciao, cioè tu hai parlato dell'assoluto consiglio che possiamo dare ai nostri figli di seguire le proprie passioni sì. per la scelta del proprio futuro. Allora, io ho fatto esattamente questo, io ho 40 anni, 20 anni fa, anche più di 20 anni fa, ho scelto che sarei stata un'archeologa. E così ho fatto, io volevo essere l'archeologo militante, quella che proprio scava, che ha i piedi nella terra, che sì. si sporca le mani. E così ho fatto, io sono di Milano, lavoro a Milano, perlomeno fino adesso ho tentato di lavorare a Milano e provincia perché ho famiglia e quindi per riuscire a conciliare un lavoro un po' anomalo, dettato dalla passione, con la mia famiglia. Però ad oggi, vista la crisi che c'è e che dura da un po' di tempo, mm-hmm. come tutti sappiamo, questa mia passione è veramente costretta tantissimo e si sta riverberando in maniera negativa sul mio stile di vita perché mi costringe a delle scelte che non avrei voluto fare, cioè delle scelte economiche restrittive ovviamente, certo. perché noi siamo legati all'edilizia è ferma e tutto quanto. Certo Adriana, però lei continui così, a investire nella passione, perché alla fine poi è quello che è il successo, da quel successo uno da cui poi deriva il successo due, che a volte è capace di superare anche degli ostacoli che ci arrivano, certo, dall'esterno. Perché poi è chiaro, siamo tutti d'accordo che purtroppo quando ci sono delle congiunture negative, quando poi vivi in un paese che magari non valorizza determinate cose privilegiandone altre, allora lì è più difficile, però credo che pur con la frustrazione iniziale, no, appunto di non riuscire a raggiungere questo successo 2, però già aver fatto una cosa che ti appassiona comunque ti mette nella condizione di aspettare, no, di essere pronto. È vero. Essere e benessere. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. È stata definita addirittura la canzone perfetta. Ma io sentire una cosa del genere scritta da Claudio Baglioni, che è quello che ha scritto le canzoni perfette vere, no? Le canzoni sentimentali vere, io, cioè, sono quelle cose che fanno venire voglia di sotterrarsi dalla vergogna, perché uno dice porco Giuda, però è però è veramente il più bel complimento che mi potesse fare, anche perché io quella canzone l'ho scritta nel 1990, quindi avevo 23 anni, no? È una delle prime canzoni melodiche che ho scritto, e quindi a distanza di così tanto tempo, di quasi 23 anni, è una delle più belle, tra virgolette, soddisfazioni professionali e personali che mi sia mai capitato di avere, quindi grazie Claudio. Senti, secondo te, Alberto, bisogna essere innamorati per scrivere una canzone d'amore? Ma bisogna aver comunque conosciuto l'amore, vero, profondamente. Vedi, e quindi non necessariamente, bene, anzi, Alberto, magari in una zona in cui non sei innamorato scrivi le più struggenti canzoni d'amore. Rimane che questa è davvero una canzone perfetta, io sono senza parole perché la cantano tutti a qualsiasi età. E posso dirti una cosa, sì, che mi ha colpito molto di Max? In questo progetto corale, dove tu vedi tutti questi artisti italiani tutti in fila per cantare una canzone con lui e lo celebrano, lui nel commentare in realtà e nel sentirsi così, sì, celebrato, si è sentito in imbarazzo, perché sì, per esempio, sì, perché commentando diventa, Venditti e Baglioni, lui ha raccontato più volte che aveva questo stato proprio un po' di soggezione, infatti diventa rosso, sì, perché poi oltretutto stiamo parlando di maestri assoluti, cioè quando ho avuto, insomma, quando uno va in studio con Antonello Venditti o Claudio Baglioni, o Claudio Baglioni dall'altra parte del vetro ti dice dopo tre volte, no, che ha cantato la canzone così, tre take in termine tecnico, ti dice: Max, com'era? Andava bene? Come magari, cioè, come posso io dire va o non va bene a Claudio Baglioni? Quindi c'è quel senso sempre di inadeguatezza, però in realtà mutuato dal fatto che questi sono dei colleghi, non sono colleghi, sono delle quasi divinità, perché hanno un'esperienza, una musicalità, una capacità di approcciarsi all'oggetto musicale che forse nella mia generazione nessuno ha. Senti, ci sono veri e propri ascoltatori che stanno dichiarando il tuo amore per te, abbinandolo anche all'amore per la moglie, perché ci sono ascoltatori che si sono innamorati con le tue canzoni e amano la moglie e amano anche te. Esatto, io sono contentissimo di questo. Ma sì, perché insomma, no? È un'arma a doppio taglio, si spera sempre che vada tutto bene, perché sennò poi vieni associato a un evento negativo. Sennò, ecco, quindi tu devi pensare che queste storie d'amore debbano durare per forza. Vita, così ne conquisti due. Esatto. Senti, invece questo benedetto tour ottobre si parte Palazzetti dello Sport, e cercheremo di andare in tutta Italia. E invece io so che Alberto ha a cuore una domanda da farti, ma che facciamo sulla canzone, vero? Perché questo è attivante, andiamo. Ero qui, ti aspettavo da tanto tempo, tanto che stavo per andarmene, e invece ho fatto bene. Sei primo mio, eccoti, pensiero. Allora, in realtà questa è la canzone che lui dedica a suo figlio, Io non gliela faccio più la domanda, perché la domanda era come lo ha trasformato il suo essere diventato papà. Noi l'avevamo conosciuto e visto proprio quando lui era un papà in attesa. Sì. E devo dire che l'abbiamo visto già trasformato, non abbiamo bisogno di chiederglielo, si vede proprio che il figlio è entrato sì, nel suo DNA emotivo. Esatto, perché è proprio una delle, forse è l'evento che insieme, cioè metterei in ordine la nascita di mio figlio e poi il mio lavoro, cioè la trasformazione che è avvenuta nella mia vita con il mio lavoro, è più importante e più radicale la trasformazione che ho subito, che ho vissuto grazie a mio figlio, perché ti cambia tutti i parametri, non sei più tu il centro del tuo universo, ma diventa lui. Alberto, questo è vero, eh? Sì, e devo dire abbiamo fatto anche un po' di conversazioni proprio fuori proprio onda. È una persona speciale. Io sento proprio la cosa vuol dire essere padri che si sintonizzano sulle storie della vita. Allora, io ringrazio Max Pezzali per essere stato con noi, naturalmente ringrazio Alberto Pellai che ci ha aiutato e condotto una lettura psicologica di questi 20 anni. Non esatto, io devo, e devo ringraziare ancora Alberto per un libro che mi fu donato nella mia scorsa partecipazione qui e mi è stato veramente molto utile, grazie ancora. Insomma, grazie a tutti, a Filippo Aureggi in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Oggi è il mio compleanno e lo festeggio con Max Pezzali. Grazie, buona giornata, domani. Essere e benessere.